tutto il paese, non ci si può muovere in modo differenziato. Credo che già l'esempio di questi anni abbia segnato la differenza e comunque abbia dimostrato che muovendosi insieme, cioè facendo le grandi missioni di governo insieme agli attori poi protagonisti dell'internazionalizzazione, i risultati si ottengono più rapidamente. Quindi una grande finalizzazione e delle risorse e una concentrazione su degli obiettivi ben chiari e prefissati in anticipo, perché altrimenti è difficile riuscire ad essere veramente competitivi. Però io credo che veramente la potenzialità sia alta e quindi i numeri debbono essere guardati anche con abbastanza tranquillità. È certo che il paese deve investire anche sul sapere e questo non è banale.